funzione della meditazione. Interviene quindi un'attenta meditazione, la quale non rimane all'esterno, non si ferma alla superficie, ma dirige più in alto i suoi passi, penetra l'interno, scruta le cose una per una. Essa considera che il testo non ha detto: beati i puri di corpo, ma i puri di cuore, poiché non basta avere le mani innocenti da opere cattive, se la nostra mente non è purificata da pensieri perversi. Lo conferma con autorità il profeta dicendo: chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro. Poi medita quanto desideri questa purezza di cuore lo stesso profeta, che prega così: crea in me, o Dio, un cuore puro. E ancora: se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe esaudito. E pensa quanta cura poneva in questa custodia del cuore il beato Giobbe, che diceva: avevo stretto con gli occhi un patto di non fissare neppure una vergine. Ecco quanto si mortificava questo santo uomo, che chiudeva gli occhi per non vedere vanità e per non guardare incautamente quello che avrebbe poi involontariamente desiderato. Dopo aver considerato queste altre simili cose sulla purezza del cuore, la meditazione comincia a pensare al proprio. Quanta gloria e gioia darebbe la visione del volto desiderato del Signore, il più bello tra i figli dell'uomo, non abietto e disprezzato, non più con le sembianze che gli diede sua madre, ma rivestito di un manto di immortalità e coronato di un diadema col quale l'incoronò il Padre suo nel giorno della risurrezione e della gloria, giorno fatto dal Signore. Esso pensa che in questa visione ci sarà quella sazietà di cui dice il profeta: mi sazierò quando apparirà la tua gloria. Vedi quanto il cuore sgorgò da un piccolissimo grappolo d'uva, quanto fuoco si sprigionò da una scintilla, quando si è stesa sull'incudine della meditazione questa piccola massa. Beati i mondi di cuore, perché vedranno Dio. Ma quanto ancor più si potrebbe estendere se vi si applicasse uno più esperto. Io sento che il pozzo è profondo, ma da novizio inesperto sono riuscito a stento a cavarvi poche gocce. L'anima infiammata da queste scintille, stimolata da questi desideri, infranto l'alabastro, comincia a presentire la sua vita del profumo, se non ancora con il senso del gusto, quasi però con l'odorato. E ne deduce quanto debba essere dolce fare esperienza di questa purezza di cui la sola meditazione dà un godimento così grande. E che cosa farà? Brucia dal desiderio di possederla, ma non trova in se stessa il modo di averla, e quanto più la cerca, tanto più ne ha sete. Mentre si applica la meditazione, aumenta anche la sua sofferenza, poiché non sente quella dolcezza che la meditazione le mostra esserci nella purezza di cuore, senza tuttavia dargliela. Non è infatti di chi legge, di chi medita solamente sperimentare questa dolcezza, se non gli è stato dato dall'alto. Leggere infatti e meditare è comune sia ai buoni sia ai cattivi, e gli stessi filosofi pagani hanno scoperto con l'aiuto della ragione in che consista l'essenza del vero bene. Ma poiché, pur conoscendolo Dio, non gli hanno dato gloria come a Dio, e contando presuntuosamente sulle loro forze, dicevano: per la nostra lingua siamo forti, ci difendiamo con le nostre labbra, non meritarono di ricevere ciò che potevano vedere, hanno vaneggiato nei loro ragionamenti, e la loro perizia era svanita, perché essa veniva loro dallo studio delle discipline umane e non dallo spirito di sapienza che solo dà la vera sapienza, sapida, quella scienza che procura gioia e ristora con un inestimabile sapore l'anima che la possiede. Di essa è scritto: la sapienza non entra in un'anima che opera il male, essa procede da Dio solo, E come il Signore ha concesso a molti l'ufficio di battezzare, riservando a sé solo il potere e l'autorità di rimettere i peccati nel battesimo, sicché Giovanni disse per antonomasia, precisando bene, è lui che battezza, così possiamo dire di lui, è Dio che dà sapore alla sapienza e rende sapida all'anima la conoscenza. La parola è data a tutti, a pochi la sapienza dello Spirito, poiché Dio la distribuisce a chi vuole e quando vuole.